direttamente dal Morning Show di Radio Globo, il successo dell'estate 2005, la Casilina. Radio Globo. Prendi le chiavi, metti in moto, accendi il motore. Prendi le chiavi, metti in moto, accendi il motore. Prendi le chiavi, metti in moto, accendi il motore. Metti la prima che è già tardi, sbrigate. E Mordello attraversa sta città. Dall'altra parte di Roma tu arriva. In mezz'ora non gliela potrò mai fa. Guarda che casino che c'è. E io mi butto sulla Casilina. Meglio la Tiburtina. E allora faccio la Tiburtina. Poi ti fermi sulla Prenestina. E allora prendo l'Ardeatina. C'è un ingorgo sulla Piantica. Se invece faccio la Laurentina, ci arrivi domani mattina. E se prendo sta stradina un po' strettina, che magari sbuca sulla Collatina, visto mai che mi risolve la mattina. Se faccio tardi al principale mi rovina. Mi consuma troppa benzina. Portala in officina. Gliela riporto in officina. Riporta già stamattina. Ma non sarà solo la benzina. O se pure la poppina. Vabbè, poi vado in officina. Sì, ma vacce stamattina. Io non ci capisco più niente. Dammi le chiavi, vattene a piedi, spegni lo motore. Dammi le chiavi, vattene a piedi, spegni lo motore. Dammi le chiavi, vattene a piedi, spegni lo motore. Che sul carro attrezzino c'entra mentre e non sto piedi su st-